Il viaggio. Levante in diretta qui su Radio Stonata. È un bellissimo brano questo di Levante, per l'appunto è un brano del Festival della Canzone Italiana, come non parlarne naturalmente. Ma ragazzi, sono emozionatissimo e vi assicuro che l'emozione me l'ha anche trasferito un po' Luca. È colpa di Luca. Luca Perissinotto questa sera in diretta con me qui su Radio Stonata e su Radio Ecosud. Luca, perché la novità è che anche siamo in FM, e naturalmente è una radio calabrese che si in diffusione FM in Calabria, però siamo anche in FM. Luca, ciao. Ciao, buonasera a tutti, siamo ritornati finalmente, ce l'abbiamo fatta. Sentivo un po' la mancanza, no, di radio. Anch'io, ti dico la verità, anch'io. Luca, allora io di solito, vabbè, ci racconti un po' questo viaggio che mi raccontavi quando ci siamo sentiti l'altro giorno per telefono, che l'hai fatto un po' di mesi fa. Sì, esatto, l'ho fatto, è stato l'ultimo viaggio del 2019. 2019 ho fatto di tutto e di più e mi sono un po' mosso per l'Europa. Poi è capitata questa occasione, proprio con non solo turisti, di andare a Cuba. Mm-hmm. E ci sono andato da solo, quindi senza la famiglia. Ho fatto una settimana a La Habana a scoprire la città, ma soprattutto l'occasione era quella di scoprire e di vedere i 500 anni della capitale, perché il 16 novembre 2019 era il suo anniversario, quindi c'eravamo anche noi, non solo turisti. Luca, una domanda subito al volo, perché tanto lo so già, sì, la risposta: ma ci sei andato con tutta la famiglia, quindi anche le bambine? No, assolutissimamente no. È stato un viaggio stampa e quindi sono andato io da solo. Ho dovuto fare il bravo per 2 mesi a casa, ma me lo sono guadagnato alla fine. No, non ci posso credere. Quindi, quindi ti sei divertito, dai, perché immagino, sì, dai, con i bambini gli orari sono diversi, Luca. Sì, esatto. Allora, ci sono 6 ore il fuso orario tra La Habana e l'Italia, quindi comunque quando chiamavo a casa dovevo calcolare un attimo le tempistiche. Però comunque alla fine ti dico, è stato un viaggio stampa che è stato anche un mezzo workshop fotografico con un fotografo professionista, e spero che sia all'ascolto. Ciao Paolo, che è il fotografo con cui mi sono appiccicato e ho fatto un sacco di foto, e mi ha spiegato anche qualche trucco fotografico. E siamo andati alla scoperta della Habana, una città bellissima che avevo visitato circa 12 anni prima, che però non avevo avuto occasione di visitare così a fondo come ho fatto nel mese di novembre scorso. Quindi come ti sei organizzato per questo viaggio, Luca? Raccontaci un po', diciamo, l'organizzazione, lo sai che io sono curioso sempre sull'organizzazione. Allora, diciamo che per quanto riguarda l'organizzazione, dall'Italia alla Habana c'erano organizzato tutto. Invece le tempistiche che avevamo là era più o meno un liberi tutti, nel senso che andate, fate quello che volete. Noi avevamo una settimana alla Habana, abbiamo approfittato per visitare gli angoli più nascosti della città, e solo qualche giorno, diciamo dal giovedì fino al sabato in cui ci sono state le celebrazioni, abbiamo visitato la città secondo un programma stabilito dall'organizzazione. Comunque ho scoperto una città veramente veramente bella. C'è molta povertà, ma c'è anche molta fierezza e molta allegria da parte dei cubani. Sono veramente un popolo meraviglioso. Uh-huh. E ho scoperto dei luoghi di La Habana che consiglio a tutti, ossia andare a visitare le strade più nascoste, le strade più, diciamo, quelle un po' più rovinate, perché è là che si vede la vera essenza cubana, la vera essenza di La Habana. Ma una domanda, ma comunque cioè, le si possono visitare tranquillamente, non è come le grandi metropoli, allora, sai, ti infili nelle stradine, ti dicono no, è pericoloso, sì, non esatto. Ci devi andare. Esatto, ti dico, non sto dicendo che non ci sia la delinquenza a Cuba, tutto il mondo è paese, insomma, può capitare nella strada sbagliata, però posso comunque affermare che La Habana è una città molto sicura. Io ho girato da solo di giorno e di notte, di sera fino a sera tardi, e non ho mai avuto un problema, anzi ho trovato sempre una popolazione molto disponibile. Mi riconoscevano ovviamente che ero, non dico un turista, ma un viaggiatore, ero un fotografo perché giravo con un pass della stampa, però non ho mai avuto un problema. Quindi il mio consiglio è di non farsi intimorire dalle strade un po' buie o dalla gente, perché comunque ti guardano e ti sorridono, e se possono ti danno anche una mano e ti danno anche ospitalità. Luca, sai che facciamo? Ci andiamo ad ascoltare un brano e poi ritorniamo di nuovo qui a chiacchierare insieme a te. Sei d'accordo? Va bene, ok, io aspetto. Allora ci andiamo ad ascoltare qui appunto in diretta Tommaso Paradiso, Non avere paura, qui sulla radio naturalmente che più stona più suona. Il viaggio. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. E siamo ritornati nuovamente in diretta, stiamo parlando con Luca Perissinotto che ci sta raccontando il suo viaggio a La Habana, a Cuba e io e Luca ci stavamo scambiando un po' di chiacchiere tranquille, però ritorniamo appunto, ci concentriamo Luca, ritorniamo a parlare appunto del tuo viaggio a Cuba e mi stai dicendo fuori onda che volevi concentrarti su dei consigli utili che volevi dare ai nostri radioascoltatori, a chi vuole avventurarsi a fare un viaggio a Cuba. Ricordiamo che il tuo viaggio è durato una settimana, vero? Sì, esatto, io ho fatto una settimana a Cuba, ci sono state, fortunatamente ti dico la verità, non abbiamo avuto problemi di brutto tempo, e uno dei consigli infatti che mi premeva dare a chi vorrà poi andare a Cuba durante l'invernata è comunque di non sottovalutare il tempo, perché nonostante il bel tempo si trovi ovunque lungo l'isola, il problema più grosso può arrivare dal Canada, che è quell'aria gelata che fa precipitare per esempio per qualche giorno la temperatura sotto i 20 gradi. Si può comunque sfruttare il mare, sfruttare il sole, ma comunque c'è questo vento freddo, insomma, quindi magari portarsi dietro la solita giacchettina piuttosto che il pantalone lungo per affrontare il freddo, insomma. E gli altri due consigli che volevo, di cui volevo parlare era appunto la questione di internet e la questione della doppia moneta presente a Cuba. Allora, per quanto riguarda, parliamo prima della doppia moneta. A Cuba hanno il peso cubano, che è il peso convertibile, quello usato dalla popolazione normale, e poi c'è il CUC, che è la moneta convertibile, il peso convertibile che ha agganciato al dollaro. Il fatto è che molti pensano che, essendo agganciato al dollaro, sia più conveniente portarsi i dollari dall'Europa, cambiare i dollari e portarli a Cuba. La cosa è sbagliata, perché comunque portarsi i dollari a Cuba significa andare incontro a una tassazione del 13% sul cambio, quindi è meglio portarsi direttamente gli euro, in cui ti danno qualcosina di più e quindi l'euro non è tassato. E un'altra cosa, sempre in merito alle monete, riguarda le carte di credito e riguarda i bancomat. Perché purtroppo a Cuba non sono ancora attrezzati come dovrebbero per quanto riguarda i POS e le linee. I problemi maggiori per quanto riguarda l'utilizzo delle carte di credito sono l'assenza del POS negli esercizi commerciali, e poi anche la difficoltà magari di poter prelevare ai bancomat. Se andate magari in un hotel, è possibile utilizzarli, perché le grosse catene hanno la possibilità di farvi pagare con le carte di credito, mentre se andate per esempio in case particolari dovete andare a prelevare al bancomat, ma oltre al danno vi capita anche la beffa, perché magari vi capita di fare 2 ore di coda, e è successo a un mio amico, 2 ore di coda e poi non riuscire a prelevare perché il bancomat non erogava denaro, o perché mancava la linea, o perché non c'erano più i soldi, insomma. Quindi io sempre consiglio magari di fare un cambio cospicuo all'arrivo all'aeroporto, e poi magari gestirsi negli ultimi giorni, nel gestirsi con un cambio, cambiando poco a poco, anche perché un altro problema è che quando si va a Cuba non si può far uscire denaro contante ufficialmente, perché lo Stato cerca di tenersi i soldi a casa e non è possibile farli uscire dallo Stato. Invece l'altra cosa di cui volevo parlare era un attimo internet. Insomma, un viaggio a Cuba fortunatamente prevede uno stacco dal mondo di internet, perché comunque utilizzare un, utilizzare la propria connessione internet costa un sacco di soldi. Mm-hmm. E quindi ci sono svariati motivi per utilizzare internet. Allora, il primo motivo, ci sono vari metodi per utilizzare internet. O si usa un albergo comprando una connessione che costa circa un CUC 50, quindi circa 1,30 euro all'ora. Altrimenti si può prendere una SIM, ma prendere una SIM significa pagare il costo della SIM 40 euro e poi dover pagare per la connessione. Oppure si devono utilizzare gli hotspot, ma gli hotspot sono in giro per le piazze e tutti gli hotspot li hanno, quindi insomma diventa un po' più complicato. Questa complicazione l'ho trovata anche abbastanza... una cosa positiva, perché alla fine non si va in giro sempre postando su Instagram, postando su Facebook, ma si scattano le foto e ci si gode un po' di più la città, insomma un po' di più il panorama. Ma infatti è verissimo, è la stessa cosa, sai, si riscontra negli spettacoli, comunque tutti devi essere là, cioè invece di goderti, che so, il cantante sul palco, lo riprendi, lo guardi dal telefonino, ma scusa, ma che ci sei andato a fare allora a vederti il cantante? Sì, esatto, siamo un po' troppo dipendenti da internet, infatti, con Instagram, Facebook, tutto questo postare in diretta. Io infatti ho ringraziato, infatti, che non ci fosse stata tutta questa possibilità di connettersi. Ma infatti l'ho letto sul tuo articolo, che naturalmente trovate sulla pagina Facebook di Radio Stonata, c'è il link per poter leggere l'articolo di Luca, oppure lo trovate su nonsoloturisti.it, www.nonsoloturisti.it, andate, cercate l'articolo di Luca e lo leggete, come noi lo stiamo facendo, ve lo stiamo raccontando in diretta, appunto. Luca, sai che ti dico? Ti dico che ci andiamo ad ascoltare un altro brano e poi io con te voglio parlare di macchine. Va bene, ok. Sei d'accordo? Sì, assolutamente, è la cosa più, forse una delle cose più belle di Cuba. Ok, a tra poco, e arriva Francesca Michelin. E ritorniamo nuovamente in diretta qui appunto su Radio Stonata e su Radio Eco Sud. Lei era Francesca Michelin, Nessun Grado di Separazione, e siamo col nostro Luca Perissinotto di Non Solo Turisti.it. Con lui stiamo parlando appunto del suo viaggio a Cuba, alla Habana, appunto nell'articolo c'è fotografata in una strada una bellissima macchina, perché là le macchine sono rimaste agli anni 50, quindi ancora si trovano cioè quasi quasi vado a Cuba e mi compro una macchina, non lo so. Guarda, purtroppo avere quelle macchine là non è semplice, perché comunque si tramandano di palo in figlio. E molto spesso quando vedi le Buick o le Chevrolet che girano per la città, sono quasi tutte adibite a taxi. In modo particolare sono quasi tutte dei taxi collettivo, sono quei taxi dove si sale in 4 o 5, si contratta il prezzo. Uh-huh. Per esempio per un Cook ti fanno fare tipo quei 5-6 km che ti porta all'albergo. Le macchine sono bellissime, perché comunque sono un'icona di Cuba e sono assolutamente da prendere. Io consiglio sempre che per girare Cuba o per girare anche le semplici città, non andate a piedi, o quantomeno sì, andate a piedi, ma se dovete muovervi in taxi, scegliete i collectivos in modo da salire in una di queste auto storiche. Poi comunque se si va a Plaza de la Revolución si va a trovare, ci sono delle macchine, sono proprio ad uso turistico, si sale tipo 30-40 euro per fare una mezz'ora di giro, si viene portati a spasso per la città, si viene portati lungo il Malecón, si viene portati vicino alla zona del Campidoglio, dove si va a visitare appunto le zone più turistiche della città. Ma ripeto, è una cosa più turistica quella che l'auto storica che si prende a Plaza de la Revolución. Io piuttosto suggerisco sempre di prendere un collettivo. Su un collettivo basta solo vedere dove ci sono gli ammassi di gente. Tu fermi la macchina, quando vedi passare li fermi e ti contratti il prezzo e sali e ti portano un po' dove ti serve, insomma. Fantastico. E poi va bene, nell'articolo parli anche della questione economica, cioè perché a Cuba racconti che si vive con lo stipendio medio di 25-30 dollari mensili. Sì, esatto. Cuba, diciamo che allora la vita a Cuba non è semplice, perché comunque l'economia è di tipo socialista, dove tutti dovrebbero essere uguali, però insomma non è propriamente così. Un dottore guadagna quanto un cameriere. Il fatto è che molto spesso a fare a fare i camerieri sono molto spesso i dottori. E diciamo che Cuba è anche un paese delle contraddizioni, perché la frase che mi ha detto una delle guide è: a Cuba tutto è proibito, tutto è possibile, per verificare appunto le contraddizioni. E a Cuba tu puoi trovare il medico che fa il cameriere e guadagna uno stipendio e poi magari fa un altro lavoro per potersi guadagnare qualcos'altro. Ricollegandomi al discorso di internet, un metodo lecito per guadagnarsi da vivere che cos'è? Comprare le schede internet a un prezzo, al prezzo normale dalle, dai venditori, dai negozi, e poi andare a prenderne più che si può in modo da farle esaurire e poi poter vendere la connessione ai cubani. E questo comunque è un metodo lecito e che permette a loro di guadagnarsi un secondo stipendio, quindi permette magari di arrotondare, anziché prendere i $25-30 possono arrivare sui $75-100 al mese. Questo permette alla famiglia di vivere dignitosamente, insomma, di vivere molto meglio. Ho capito. Poi un'altra cosa che volevo parlare con te è del fatto delle spiagge. Ci sono bellissime spiagge a Cuba. Mi ricordo di un mio amico che mi aveva anche raccontato di dei delfini. Non so se tu li hai visti questi delfini o se ne hai sentito parlare. Allora, noi non abbiamo fatto escursioni, noi siamo arrivati una settimana a La Habana. Però su questo mi ricollego al fatto di del viaggio di 12 anni fa, quando con la mia compagna siamo andati a Varadero, la località più turistica di Cuba, dove abbiamo anche poi girato per altre città. E comunque le escursioni in catamarano ti portano a vedere i delfini fuori nel Mar dei Caraibi. Ciò non toglie che comunque le spiagge sono quelle da cartolina, la palma con la sabbia bianca, il tramonto, il sole che tramonta sul mare. Tutte queste cose vi posso garantire che esistono veramente e che comunque sono da vedere, perché comunque Cuba è veramente bella ed è anche questo che la rende unica. Uh-huh. E poi naturalmente lo lasciamo per ultimo, ma anzi altre due cose ti voglio. Ce l'hai già raccontato prima, ma soprattutto perché sai, sto spulciando l'articolo, vado giù, vado su, quindi ti metto un po' in difficoltà. A proposito della popolazione, tu nell'articolo dici che sono molto solari, anche se non hanno una ricchezza spropositata. Sì, esatto. Io quello che ho notato è quello che mi è piaciuto tantissimo del popolo cubano è che nonostante tutto non gli manca il sorriso. Non so se forse sarà la musica, non so se sono contenti con quello che hanno. Io ho notato che sono veramente un popolo favoloso. E se tu hai bisogno di qualcosa, loro te lo chiedono. Se hai bisogno di ospitalità, ti ospitano. Se hai fame, loro ti danno da mangiare. Io non ho mai sentito un no da un cubano. Mm-hmm. Molto spesso capita che ti chiedono magari il cook, vengono e ti dicono: ma posso farmi, fai una foto, mi dai un cook? Ma non è una cosa assillante. Sono veramente un popolo felice che vive con quello che ha. Ma sono anche molto orgogliosi della loro identità, questo identificarsi con Che Guevara, il fatto di sentirsi una nazione indipendente, che si sono guadagnati la libertà. Questo mi ha fatto veramente pensare che siano un popolo veramente orgoglioso, e soprattutto, ripeto, non perdono mai il sorriso, perché a parlare con la gente è veramente bello, ti vengono sempre incontro, sono un popolo meraviglioso. Dato che l'hai accennato tu nell'articolo, si sente l'influenza di Che Guevara ancora? Cioè... Ah, assolutamente sì, Che Guevara è un dio in terra per i cubani. Se tu vai per le strade dell'Havana non c'è un angolo dove non vedi un suo volto. Girando per le librerie ho trovato una libreria, non so se ho messo la foto, non so se l'ho messa qui o se l'ho messa in un altro posto, perché ho anche scritto un altro posto su Cuba. Uh-huh. sulle cose da vedere, ma c'è una libreria dove ha uno scaffale pieno di libri su Che Guevara. Se tu giri per le strade dell'Havana, le strade di L'Havana vecchia, ma non nelle zone turistiche. L'Havana è caratterizzata dalle vie principali, che sono tutte turistiche tenute bene, ma subito come esci da quelle strade là ti trovi nelle strade più povere e comunque vedi i volti di Che Guevara. Che Guevara ha segnato una popolazione, Che Guevara ha segnato un popolo. Per Che Guevara, per i cubani, è un dio in terra. E anzi, se ti capita di andare a Santa Clara, o qualcuno capiterà di andare a Santa Clara, io suggerisco sempre di andare a vedere il mausoleo, che comunque è bellissimo, io l'ho visto 12 anni fa ed è una cosa stupenda. E l'ultima cosa, l'alcol a Cuba. diciamo che noi lo vediamo, sì, l'alcol, quando parliamo di alcol parliamo di rum. Il sì. Rum è come, ti dico, facciamo lo spritz per noi veneti. Noi veneti beviamo lo spritz dalle 5 alle 5, 5 e mezza del pomeriggio in poi come aperitivo. I cubani il rum lo bevono in qualsiasi momento della giornata. Uh-huh. E il rum identifica proprio il popolo cubano. Diciamo che di solito si beve un bicchiere di rum e si fuma il sigaro. Anche per il sigaro poi ci sarebbe tutta una storia, i sigari... raccontacela, dai, Luca. ti giuro che sarà veloce. Il sigaro va trattato in tre, perché si parla di tre parti: il primo è per conoscerlo, il secondo per gustarlo e il terzo per farlo morire, che è diviso in tre terzi, e non ci va trattato come una donna, quindi quando finisce non va schiacciato, perché è come maltrattarlo, e le donne non si possono maltrattare, non si devono maltrattare in qualsiasi caso. Uh-huh. E fumare un sigaro impiega circa 20, per fumare un sigaro si impiega circa 20-25 minuti. Uh-huh. E il cubano medio è solito fumare il sigaro e accompagnarlo sempre con un bicchiere di rum, ma questo non avviene in un momento specifico della giornata. Per il cubano bere il rum si beve in qualsiasi momento, che sia la mattina, che sia la sera, insomma. Fantastico, Luca. Che dire, grazie, sei stato gentilissimo, però io so che là c'è qualcuno che freme per venire in diretta. Ecco, eccola, è qua. Ciao. Ciao, come va? Bene. Come ti chiami, così chi non lo sa? Rachele. Ciao, Rachele. Ti piace ascoltare il papà che ci racconta le cose in diretta alla radio? Devo dire sì. Vorresti parlare tu a posto del papà, vero? Sì. È lui che mi dice. Allora, sai che facciamo, Rachele? La prossima volta ti prepari in storia e parliamo di qualcosa di storia. Che ne dici? Va bene? Sì, di storia. Anche perché abbiamo in programma un viaggio, diciamo, storico il mese prossimo, che andremo a Cracovia. E Rachele preme per andare a vedere Auschwitz. Va bene, grazie Rachele. Vuoi salutare qualcuno? Tutti. Grazie Rachele. Grazie Rachele, grazie Luca Pressinotto di nonsolotouristi.it, e ci sentiamo prestissimo, quindi fra qualche mesetto, vero Luca? Sì, quando aspettiamo che vengano i colleghi, aspettiamo che si facciano avanti i colleghi, e poi quando sarà un altro momento, molto volentieri ritorneremo in diretta. Grazie Luca, ciao e buona serata. Grazie a voi, ciao, alla prossima. Il viaggio.